Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria saranno sostanzialmente due. Il primo è la presentazione che è avvenuta poco fa a Milano, ma già vi era stata una prima presentazione questa mattina a Roma, a Federmeccanica, dell'obiettivo Industria 4.0. Al di là dei nomi, si tratta di capire qual è l'iniziativa, il coordinamento, per meglio dire, sulle politiche industriali e politiche economiche che può attuare il governo lavorando con le parti sociali, con i soggetti, in questo caso la Confindustria, organizzazioni sindacali, il mondo economico e imprenditoriale. Ne parleremo a lungo, anche perché si articola sia su, diciamo, delle linee guida, ma anche uno stanziamento di soldi che, ha detto Renzi poco fa, sarà già previsto nella legge di stabilità. Il ministro Calenda, presente anch'esso, ha annunciato di nuovo l'iperammortamento e il superammortamento, ossia agevolazioni fiscali per chi investe in innovazione, e un iperammortamento che consisterebbe nell'incremento dell'aliquota degli investimenti 4.0 dall'attuale 140% al 250% dell'investimento. Il superammortamento invece è sostanzialmente una proroga con aliquota al 140%, e poi lo spiegheremo anche nel dettaglio, perché complessivamente vi sono soldi stanziati per questo. Così come Calenda ha ricordato che gli incentivi saranno orizzontali, incentivi fiscali orizzontali, non più i bandi, e quindi non l'obbligo di passare attraverso, diciamo, la vidimazione, e ha calcolato, stimato in complessivamente 13 miliardi il piano di incentivi fiscali per l'industria nel 2017, che però non ricadranno tutti sulla legge di bilancio 2017. Il credito d'imposta sale fino a 20 milioni di euro, e poi altri elementi di cui parleremo in maniera approfondita. L'altro tema invece riguarda chiaramente gli Stati Uniti, perché in serata assisteremo alla decisione della Federal Reserve sul costo del denaro. Tutti scommettono che i tassi resteranno ancora invariati, quindi allo 0,25-0,5%, e quindi il livello a cui furono portati con il primo e unico per ora innalzamento dei tassi a dicembre del 2015. Nel dicembre 2015, l'anno scorso, abbiamo avuto infatti negli Stati Uniti il primo rialzo dei tassi dal giugno del 2006. Più che la manovra o l'intervento sui tassi, che è da escludersi, almeno secondo le maggiori probabilità, si tratta di capire come Janet Yellen giustificherà e come commenterà la decisione. E quindi l'avvertimento, come molti si aspettano, che comunque i tassi di interesse americani verranno rialzati entro fine anno. C'è tra l'altro la riunione del 13-14 dicembre, che potrebbe essere quella determinante. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. Chiaro che parleremo dei tassi di interesse negli Stati Uniti nel giorno in cui la banca centrale giapponese ha deciso di lasciare il costo del denaro invariato, quindi meno 0,1%, e ha detto che continuerà a pompare, diciamo così, yen, moneta, perché ha l'obiettivo di arrivare a un'inflazione del 2%, un obiettivo simile a quello che ha la banca centrale europea. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. E partiamo dalla borsa. Più 0,80% oggi Milano, più 0,50% Parigi, più 0,40% Francoforte, più 0,14% Londra in questo momento, e il Dow Jones più 0,25%. Giornata oggi più tranquilla rispetto a quella di ieri. Cede in maniera significativa soprattutto Buzzi Unici, meno 2,70%, poi Fiat Chrysler in calo dell'1,1%, Atlantia dello 0,90%, Snam dello 0,50%, come Terna. In recupero le banche invece è anche il monte parziale recupero per il Monte dei Paschi, ma siamo sempre a 19 centesimi di euro. Il Monte dei Paschi guadagna il 2,5%, UbiBank il 4,80%, Popolare Emilia Romagna più 4%, Banco Popolare più 3,20% come Popolare Milano, il 3,1% lo guadagna Unicredit. Poi segnaliamo anche Prismian in rialzo del 2,90% ed Exor del 2,80%. Visto che parlavamo di banche, vale la pena ricordare anche l'andamento di Generali più 1,5 e di Intesa San Paolo più 1,5 anch'essa. Allora, mentre si ragiona sul petrolio, sulla possibilità che ad Algeri si raggiunga un tetto alla produzione, è interessante notare come ieri la Russia ha superato il proprio record di estrazione petrolifera giornaliera e risaliva al 1987. Quindi mentre tentano un accordo paesi OPEC e paesi non OPEC, ognuno continua a andare per i fatti suoi. Dicevo 11,75 milioni di barili estratti, e tra l'altro sempre secondo il Ministero dell'Energia di Mosca, nei primi di settembre l'estrazione per la prima volta ha superato prima gli 11 milioni, record dal 91, e poi addirittura gli 11,7 milioni, record dal 1987. Parleremo di Federal Reserve e di atteggiamento delle banche centrali nel giorno in cui comunque l'OCSE rivede nel suo Economic Outlook la crescita mondiale al ribasso al 2,9% quest'anno, al 3,2% l'anno prossimo. È un ritocco lieve di 0,1 sul 2016. Per quello che riguarda la zona euro invece sarà l'1,5% la crescita media quest'anno, l'1,4% l'anno prossimo, e quindi 0,1 punti in meno rispetto alle stime di giugno per il 2016 e 0,3 punti in meno rispetto alle stime di giugno per il 2017, che doveva essere un anno di crescita più forte rispetto al 2016. Invece l'OCSE ci dice che se tutto andrà bene sarà un anno anche leggermente più debole rispetto al 2016. E questa chiaramente non è una bella notizia, perché questa è la media dell'Unione Europea, e sappiamo che l'Italia in questa media è sotto media. Quest'anno faremo 0,7-0,8, l'anno prossimo dovremmo fare, ma il condizionale è assolutamente d'obbligo, l'1%, stando alle ultime stime. Comunque sempre l'OCSE definisce una trappola quella in cui il mondo è tenuto, la trappola della crescita debole. Tra l'altro nel 2017 ci sarà una leggera accelerazione, ma viene dato per scontato ormai che nel 2016 l'economia crescerà meno rispetto al 2015. E poi l'OCSE chiede all'Europa un'applicazione più flessibile del patto di stabilità, un uso più favorevole della politica di bilancio, e questa è una critica che arriva alla gestione di Bruxelles filo tedesca, che non stiamo facendo noi, lo fa da tempo l'OCSE, lo fa anche il Fondo Monetario Internazionale. Cosa dice? Guardate che è pazzesco, perché c'eravamo arrivati anche noi nella nostra infinita modestia. Escludere le spese nette di investimento dalle regole fiscali e più in generale sviluppare un approccio coerente per usare discrezionalità nell'applicazione delle regole. Nell'Unione Europea si potrebbe fare di più per utilizzare i costi di indebitamento eccezionalmente bassi, cioè i tassi di interesse bassissimi della Banca Centrale Europea. Allora, il passaggio sull'esclusione delle spese nette di investimento dalle regole fiscali è la semplice, diciamo, richiesta di distinguere quando uno Stato ha dei costi o quando fa degli investimenti. Qualunque imprenditore, l'abbiamo detto decine di volte, conosce bene la differenza tra un costi fissi, ma, o anche costi intermedi nel caso della pubblica amministrazione, costi di gestione, e invece un investimento in un macchinario, in un capannone, in un impianto, in un ufficio commerciale. Sono due cose diverse. Invece noi nel deficit, tutti i paesi europei, mettiamo ambedue le cose, sia gli investimenti in infrastrutture, in tecnologia, nella digitalizzazione, nelle infrastrutture a partire dall'edilizia scolastica e non solo, sia i costi per esempio della pubblica amministrazione, dove abbiamo tagliato poco, ancora molto poco, con la spending review i costi dei beni intermedi. Non si distingue tra costi e investimenti, e l'OCSE ribadisce: escludete le spese nette di investimento dalle regole fiscali, cioè dalle regole del deficit. E visto che l'OCSE ha ridotto le stime, ha ridotto anche per l'Italia. In realtà nel 2016 cresceremo secondo l'OCSE dello 0,8%, e qui più o meno ci siamo. Il problema è che l'OCSE stima che cresceremo dello 0,8 anche nel 2017. E questa è una brutta revisione della crescita, perché sono 0,6 punti in meno rispetto alle stime dell'1,4%. Nel 2016 si stimava di crescere l'1%, faremo 0,8. Nel 2017 si stimava 1,4 e già adesso ci dicono che faremo 0,8. E beh, è una riduzione di quasi la metà, eh. E tra l'altro, sempre l'OCSE, ricordo, come in Italia, la revisione a ribasso delle stime di crescita si è dovuta al fatto che le attese su investimenti e scambi non si sono rivelati così fruttuosi come si prevedeva, e ammonisce: l'Italia sarà uno dei paesi maggiormente colpiti dalla bassa crescita della zona euro nel 2017. E andiamo allora all'industria 4.0, dove secondo il ministro Calenda, presentando il piano oggi, sarà in grado il piano del governo di mobilitare investimenti privati per 10 miliardi di euro in più, ma ci sono tutto insieme di incentivi fiscali oggi annunciati e ne parliamo sia ascoltando le parole di Renzi e di Calenda che di chi era presente. Prima di tutto però, come sempre a quest'ora, i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore su un tema che è anche di carattere economico, e mi riferisco al settore dell'editoria, la rottura tra Milano e Torino sul Salone del Libro, praticamente nelle stesse date, nelle due città con unica governance, l'evento unico, non ce l'hanno fatta, non si sono messi d'accordo. Di questo si occupa Alessandro Praterotti nei 100, Alberto Arioli, scusatemi, vice direttore del Sole 24 Ore, nei 100 secondi trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il Salone Unico del Libro Milano-Torino non si farà. Non è passato quello che sembrava il compromesso, gli editori nella parte milanese e i librai a Torino. Nel capoluogo piemontese, la più grande libreria d'Italia, a Milano la manifestazione di business e la presenza degli operatori a partire dal nuovo colosso Mondadori Rizzoli. La trattativa è naufragata e a nulla è servita la mediazione dei due ministeri coinvolti, i beni custurari e l'istruzione. La proposta di organizzare un unico Salone del Libro non è passata, dopo che l'Associazione Italiana Editori aveva deciso di portare avanti nel capoluogo lombardo una propria iniziativa parallela, appunto la Fabbrica del Libro. Ora rimane in atto uno scontro tra grandi editori e piccoli editori, che sono contrari all'idea di spostare a Milano una parte della storica manifestazione torinese. Nell'ipotesi di mediazione, prospettata fino all'ultimo, si puntava a Torino come cuore della manifestazione per ospitare autori, eventi, momenti di formazione sul mestiere del libraio, con ospiti anche internazionali. A Milano invece avrebbero dovuto esporre gli editori, naturalmente ospitando anche in questo caso autori, eventi, momenti di formazione sul mestiere dell'editore. Il simbolo dell'unione dei due saloni, un treno che avrebbe dovuto collegare le due città con eventi sia a bordo delle carrozze sia nelle stazioni di riferimento. L'idea però, come detto, non è passata e ora Torino continuerà con il suo Salone del Libro e Milano ospiterà la nuova Fabbrica del Libro. Divide et impera, divide e comanda, ma in questo caso si divide un pubblico dei già pochi lettori e non si capisce davvero chi possa giovarsene in termini di potere. Ha ragione Franceschini, un pessimo risultato per il paese e per il mondo dell'editoria. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666 che li deprimiamo con queste notizie. Cosa ci posso fare? Anch'io vorrei dire che l'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita italiana, però meglio dirselo adesso, così poi altri non scriveranno: vedi che l'OCSE dice che l'anno prossimo, se tutto va bene, faremo come quest'anno, 0,8%. Ne dovrà prendere atto anche il governo prima o poi, proprio nel redigere la legge di stabilità finanziaria, perché sappiamo che il rapporto deficit-PIL, non tanto quello sul 2016, che ormai 0,8 più o meno, insomma l'abbiamo capito tutti, ma sul 2017. Detto questo, e lo devo ripetere un'altra volta ancora, tutte le iniziative che vengono dal governo, qualunque sia il colore del governo, che portano e cercano di rilanciare l'attività di impresa dando incentivi fiscali non a pioggia e non, diciamo, burocraticamente, che diventino burocraticamente un incubo, ma in automatico, a nostro avviso è un'iniziativa positiva. Allora Calenda oggi ha annunciato tutto un piano che riguarda il superammortamento e l'iperammortamento, che porterà l'ammortamento dal 140% dell'investimento al 250% dell'investimento. Con grande gioia di chi mi dà del filo renziano come sport, ascoltiamo però quello che ha detto il Presidente del Consiglio Renzi quando è intervenuto appunto a Milano presentando 2 ore fa il Piano Nazionale Industria 4.0. Ha detto Renzi: giochiamo la carta del coraggio. Noi, il nostro governo, ritiene che con tutte le difficoltà e i limiti che l'attuale scenario internazionale pone di fronte a noi, l'Italia abbia un futuro straordinario. Non è un training autogeno che ci diciamo per rendere ragione del tempo che impieghiamo nella cosa pubblica. E non è neanche una sorta di convincimento che vogliamo farvi. In questo scenario la nostra lettura è che l'Italia non possa essere la patria dei sempre no, solo no, non ce la facciamo. Noi pensiamo che l'Italia debba essere la patria delle possibilità, di chi ci prova, di chi ci crede, di chi paradossalmente può anche non farcela, perché dobbiamo iniziare ad accettare il principio del fallimento come una possibilità della politica, dell'economia. Allora, cambiare la mentalità, questo è il lavoro che stiamo cercando di fare, la nostra mentalità. Dire che l'Italia è la patria delle opportunità e delle possibilità. Questo piano funzionerà se le donne e gli uomini che fanno l'impresa oggi in Italia accetteranno la sfida del cambiamento. E poi Renzi, commentando la presentazione fatta dal ministro Calenda, viene voglia di mettersi a lavorare subito con la manovra che il governo sta preparando. Le tasse saranno ancora in calo, la legge finanziaria sarà approvata, le tasse continueranno ad andare giù. Questa pagina di futuro è una pagina che deve essere realizzata con un modo di agire molto concreto e poco fumoso. Lo faremo, lasciatemelo dire, in una dinamica in cui nel frattempo la legge di stabilità sarà approvata, ci sono alcune delle misure, di fatto sono queste, ce ne saranno altre, va giù l'IRES, i piccoli avranno, perché continuano ad andare giù le tasse. Io apprezzo molto quelli che dicono: ah, però le tasse non vanno giù a sufficienza, vero? Verissimo. Ma le tasse vanno giù, sono 3 anni in questo paese in cui continuiamo a vedere andare giù le tasse, ma i cittadini non se ne accorgono. L'Italia deve sempre fare meglio, ma l'IRA al costo del lavoro era un tema che per 20 anni le assemblee di Confindustria hanno posto come prioritario ed oggi non c'è più. Ma il tema della diminuzione della pressione fiscale sul mondo agricolo non c'è più, ma il tema degli incentivi mirati, senza bisogno del timbro ministeriale. Questo tipo di azione sulle tasse continuerà anche con la legge di stabilità 2017, continueremo a cercare di rilanciare sulle infrastrutture e sugli investimenti. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Marco Fortis, che è editorialista del Sole 24 Ore, spesso nostro ospite quando parliamo di industria, proprio industria, modelli industriali, distretti industriali e export, e insegna economia industriale alla Cattolica di Milano ed è vicepresidente anche della Fondazione Edison. Buonasera Fortis. Buonasera. Poi entriamo subito nel tema, poi la risentirò dopo il metro e la pubblicità. Adesso ascolteremo Calenda sugli annunci specifici, e quindi superammortamento, iperammortamento, 13 miliardi. Qual è, che cosa, se lei dovesse spiegare ai suoi studenti cosa vuol dire Industria 4.0 al di là degli slogan, che titolo e che, diciamo, didascalia utilizzerebbe? Diciamo che è una rivoluzione che mira a combinare in modo ottimale tutta una serie di innovazioni tecnologiche che sono venute alla ribalta negli ultimi anni e che spaziano da nuovi tipi di robotica, le stampanti in 3 dimensioni, alla realtà aumentata, all'utilizzo della cyber security, dell'iCloud. Quindi è tutto un tentativo di mettere l'impresa di fronte contemporaneamente a queste opportunità tecnologiche, di realizzare delle combinazioni che aumentino la flessibilità, la velocità, la produttività e anche la qualità dei prodotti. Allora, diciamolo una cosa in maniera molto chiara: questo lo può fare solo l'imprenditore, l'impresa, non lo può fare il governo. Il governo può mettere, qualunque governo, può mettere a disposizione delle risorse e rendere più facile da un punto di vista fiscale l'investimento. e quindi dire vabbè, io non ti penalizzo se tu invece che tenere i soldi, usarli solo come utili e dividendi, utilizzi questi soldi per reinvestire. E questo è il primo aspetto. Vorrei far sentire il ministro Carlo Calenda proprio sul tema dell'iperammortamento, cioè incremento dell'aliquota investimenti dall'attuale 140 fino al 250% e la proroga del superammortamento già presente nella precedente legge finanziaria che porta che verrà prorogato al 140% ad eccezione di veicoli ed altri mezzi di trasporto che prevedono un superammortamento ridotto al 120%. Il prossimo anno vogliamo mobilitare investimenti privati per 10 miliardi in più. Gli strumenti. Il superammortamento ha funzionato, è una cosa che le aziende stanno usando. Lo terremo, ma lo accompagneremo con un iperammortamento, vale a dire un ammortamento al 250% per i beni legati a manufattura 4.0. E poi gli incentivi orizzontali, da cui vorrei ripartire dopo il meteo con il professor Fortis. Incentivi fiscali orizzontali, il tentativo di superare, diciamo, la pastoia, le lungaggini burocratiche, di arrivare ad incentivi che scattino in automatico. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presento Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB+. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Vuoi andare all'estero? Per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. State ascoltando un programma offerto da... Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Focus Economia. :17:37, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Allora, dicevamo, vediamo anche cosa significhi secondo il governo l'idea di incentivi orizzontali e mai più bandi. Oggi si è riunita questa cabina di regia, contiene tutti gli attori pubblici e privati, è una cabina di regia che deve funzionare come un'assemblea degli azionisti, si riunisce una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno, verifica cosa è stato fatto in maniera direi abbastanza spietata e cerca di cambiare quello che non funziona in maniera molto semplice, come fate voi nelle vostre aziende quando incontrate gli azionisti e dite questo era il piano, vedrete il piano. Ha sempre degli obiettivi attaccati, misurabili, gli obiettivi sono raggiunti o non raggiunti. Ora, tutto il piano è costruito sulla base di incentivi fiscali orizzontali, che vuol dire? Che l'impresa va e li attiva nel suo bilancio, non deve fare una domanda, non deve scrivere a qualcuno che gliela deve approvare, timbrare, per far arrivare i soldi, queste cose sono finite per me. Io incentivi a bando sulla ricerca e innovazione non li faccio più. Allora, superammortamenti da un lato e iperammortamento prolungato e incentivi a bando. Cosa vuol dire poi concretamente, professor Fortis? Dunque, intanto va precisato che il superammortamento è già in vigore, sì, certo. ma viene prorogato per quanto riguarda gli investimenti di tipo tradizionale anche l'anno prossimo, con la possibilità tra l'altro di utilizzarlo a patto che il bene sia consegnato, la macchina, il macchinario, sia consegnato entro il 30 giugno del 2018, certo. Previo però a un impegno preciso da parte dell'impresa che deve aver fatto un ordine e deve aver pagato un acconto superiore almeno al 20% del prezzo del bene per dimostrare che esiste questo impegno. L'altra cosa importante è invece quanto è stato prima detto, cioè la possibilità di avere una proposta di iperammortamento al 250% per tutti i tipi di investimenti innovativi che rientrano in quei settori che citavamo prima legati all'industria 4.0, quindi dal security al cloud, ai big data, all'utilizzo di internet in campo industriale, ai modelli di simulazione. Queste soluzioni, questi tipi di investimenti godranno di questo iperammortamento fino al 250%. Altro aspetto importante è sempre di questi incentivi di tipo orizzontale, cioè che vengono identificati nel bilancio dell'azienda e quindi poi godono dei relativi crediti fiscali, sono quelli che concernono la ricerca. Il credito d'imposta viene, per la ricerca e sviluppo, viene rafforzato in modo particolare con una proposta di portare al 50% l'aliquota di riduzione nel caso della spesa di ricerca interna e spostando anche il credito massimo per il contribuente dagli attuali 5 a 20 milioni di euro. Quindi sono iniziative che agiscono di fronte a precisi impegni delle aziende documentati in bilancio e che non devono più dipendere da appunto bandi, timbri e quant'altro. Sì, questo mi sembra l'elemento più nuovo, cioè il credito d'imposta che, portando l'aliquota della spesa interna fino al 50%, con però un credito massimo da 5 milioni attuali salirà a 20 milioni attuali, beh, e questo dovrebbe permettere in automatico, fino a quella cifra chiaramente, il credito massimo, certo, di 20 milioni, di utilizzare il credito d'imposta, quindi senza fare la richiesta. Questo è il motivo per cui si dice senza passare dai bandi. Da questo punto di vista, Fortis, insomma, il governo certo che può sempre fare di più, siamo d'accordo, vedo moltissimi messaggi critici su Renzi, qualche messaggio invece positivo su Calenda, io non esprimo giudizi in questo caso, ma detto questo, e se lei vuole indicare anche un'altra direttrice in cui potrebbe muoversi il governo, poi c'è il passaggio delle imprese, che devono fare le imprese stesse, non voglio escludere ed evitare il tema. Chiaramente, cioè queste sono iniziative che mettono le imprese nelle condizioni migliori di poter cogliere le opportunità di investimento anche di fronte alle nuove sfide tecnologiche. L'aspetto secondo me interessante di questo piano è anche la neutralità tecnologica con cui si pone il governo di fronte alle scelte delle imprese, cioè non è che sono beneficiati questo o quel settore, ma sono beneficiati tutti i settori facciano investimenti in tecnologie che hanno queste finalità di valorizzare l'aspetto combinatorio dell'innovazione dell'industria 4.0. Non c'è un settore specifico o più settori che vengono beneficiati da questo piano dell'industria 4.0, ma sono tutti settori purché utilizzino e valorizzino, combinandole anche insieme, le tecnologie che oggi sono alla frontiera dell'innovazione. Sì, e questo è il tema della digitalizzazione nel complesso, che come abbiamo spiegato molte volte non riguarda un settore, non riguarda l'economia digitale, non è un settore economico, non riguarda solo l'information technology. Dicevamo tempo fa, usando un esempio, come se a inizio secolo uno avesse pensato che l'elettricità avrebbe riguardato solo chi la produceva. L'elettricità è servita a tutta l'industria, qualunque tipo di produzione tu facessi. Ecco, la digitalizzazione, mutatis mutandis, può essere intesa in quel modo. Digitalizzare l'impresa serve a tutti, qualunque tipo di attività tu abbia, manifatturiera, servizi legati all'export, legati al mercato interno, e questo, l'obiettivo di rendere appunto gli sgravi fiscali sugli investimenti e il superammortamento, l'iperammortamento, è di dire hai anche un incentivo fiscale che scatta fino a 20 milioni in automatico e comunque per i superammortamenti e gli iperammortamenti lo metti a dimostrazione dell'investimento chiaramente effettuato. Grazie intanto al professor Marco Fortis. Vorrei ascoltare anche a quanto si sono detti in realtà il presidente Confindustria Boccia e questa mattina vi era stato già un incontro proprio sull'industria 4.0 durante la presentazione dell'indagine di Federmeccanica, e rispondere però prima ad alcuni messaggi. Guardate, non è che possiamo fare tutta la puntata così ogni volta. Il Presidente del Consiglio lo facciamo sentire come tutti i Presidenti del Consiglio abbiamo fatto sentire in questi 15 anni. Se volete registro questa frase, la mando in onda ciclicamente durante il programma, perché uno può criticare che sia sbagliato il superammortamento, che sia sbagliato il Jobs Act, tutto, ma non è che potete criticare il fatto che facciamo sentire il Presidente del Consiglio, ma di cosa state parlando? Allora un attimo, non siamo allo stadio, traffico. Focus Economia. Allora, vabbè, vedo che c'è chi si diverte, si diletta a insultare. Guardate, siccome c'è un archivio di questo programma, andate a riascoltare quando c'era Prodi, chi mi dice che non facevamo ascoltare Prodi, non facevamo ascoltare Berlusconi, altri scrivono. Andate a riascoltare il programma, non so cosa dirvi, abbiamo sempre fatto ascoltare le dichiarazioni di Tremonti, di Berlusconi, quasi ogni giorno, se parlavano quasi ogni giorno. Il programma si chiama Focus Economia e fa la cronaca di quello che sto detto della giornata economico-finanziaria. Se non vi sta bene, non so cosa dirvi, però quello che so per certo è che continueremo a far ascoltare quello che dice il governo e quindi ministro dell'economia, ministro dello sviluppo economico, che personalmente apprezzo moltissimo, mi riferisco a Carlo Calenda, così non c'è nessun problema, e anche il presidente del consiglio, con cui spesso non siamo d'accordo su alcune dichiarazioni e alcune iniziative, però lo facciamo ascoltare, come capita in qualunque paese occidentale, ok? E che palle. Allora andiamo avanti. Presidente Confindustria boccia sempre su Industria 4.0, mentre tra l'altro anche l'amministratore delegato Fabio Gallia, amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, ha detto che anche la CDP parteciperà al piano del governo Industria 4.0. Dicevo, questa mattina a margine di un'iniziativa di Federmeccanica, Boccia ha detto che la Confindustria si impegna a cavalcare questa quarta rivoluzione industriale. Ascoltiamo la microfono della nostra Alessandra Schepisi. Alcune molto avanti, le medie di settore non sono significative, quindi abbiamo una fascia avanzata di imprese che è molto avanti, una fascia che è una fase intermedia e una fascia molto indietro. Dobbiamo accompagnare quelle un po' più indietro a fare questo grande salto di qualità che è culturale prima ancora che tecnologico e cavalcare la quarta rivoluzione industriale. Siamo un grande paese industriale, possiamo farcela con le nostre potenzialità. È chiaro che questa scelta riguarda le scelte all'interno delle fabbriche che faranno gli imprenditori, che riusciremo a realizzare anche con relazioni industriali moderne, e l'indirizzo di politica economica che tra l'altro oggi è stato presentato dai vari ministri a partire dal ministro Calenda, su un'idea che noi condividiamo perché pone una questione di medio termine ma anche una politica di fattori, e cioè orizzontali, e non la scelta di settori. Il digitale, il 4.0 è una questione che riguarda tutti i settori del paese e non singoli settori, e questo noi lo condividiamo molto. E poi il presidente di Federmeccanica, che riunisce le principali aziende metalmeccaniche del paese, e mi riferisco a Fabio Storchi, sempre sull'Industria 4.0. Emerge l'opportunità per il nostro paese di imboccare la strada di Industria 4.0 con grande decisione e determinazione. Oggi sapete che il governo annuncia la sua proposta per il paese. Industria 4.0 rappresenta la sfida di ammodernamento non solo dell'industria ma del paese intero, e quindi è un argomento di una rilevanza strategica per tutti, sostanzialmente tutti. Quindi al governo cosa chiede? Al governo chiederemo una serie di interventi che mettono le imprese nella condizione di poter adeguarsi a questa evoluzione e poter raggiungere in pochi anni quello che i nostri concorrenti e i paesi limitrofi stanno già facendo attualmente. Questo processo è ancora in una fase iniziale, secondo il rapporto? Sì, per quanto riguarda il nostro paese è assolutamente in una fase iniziale, per altri paesi come la Germania è già in atto dal 2005, quindi sono già 10 anni che per esempio i tedeschi stanno lavorandoci, ma anche molte altre nazioni del mondo si stanno occupando della digitalizzazione dei sistemi e dell'industria 4.0, appunto. E il tema dei contratti, il contratto dei metalmeccanici, il 28, ha ricordato Storchi, abbiamo deciso di vederci, guardarci negli occhi con i sindacati, abbiamo idee da presentare, sono sempre positivo. Speriamo in una mossa del cavallo, con un termine scacchistico, per andare nella direzione di chiudere il contratto a brevissimo. Il 28 abbiamo deciso di vederci e di guardarci negli occhi. Dopo le ferie, chissà che non siano successe cose importanti, interessanti. Abbiamo delle idee da presentarsi, ne parleremo la prossima settimana. Io sono sempre positivo, è il mestiere che faccio che mi porta a essere positivo, assolutamente sì. Noi com'è che lo chiamiamo la mossa del cavallo, dice Franchi, per andare nella direzione di chiudere, dai, assolutamente. Allora, d'accordo con chi scrive invece che ci vorrebbe anche una pubblica amministrazione 4.0, l'abbiamo detto molte volte che la riforma della pubblica amministrazione con la responsabilizzazione dei dirigenti e anche la loro il termine dell'inamovibilità è fondamentale, la semplificazione burocratica, e ricordo, visto che la stiamo mettendo assieme, anche una spending review un po' più incisiva, un po' più coraggiosa. Allora, i mercati oggi giornata più tranquilla in borsa rispetto a ieri, più 0,90% Milano, che è tra le migliori in Europa, Parigi più 0,50, Francoforte più 0,40, Londra invariata, Dow Jones più 0,30%. Rimbalzano le banche, in alcuni casi recuperano quasi tutto il calo di ieri, in altri no. Recupera bene UbiBanca più 5,40, Popolare Emilia Romagna più 4,70, Popolare Milano più 4,20, Banco Popolare più 3,70, Unicredit più 3,60, Monte dei Paschi recupero molto parziale più 2,40% a 19 centesimi di euro. Flavia Carletti, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Milano era partita in maniera ancora più decisa sulla scia di Tokyo, poi è un po' corretto ma resta in terreno positivo. Unicredit continua ad andare bene, immagino, su Pioneer. La shortlist sono tre i soggetti a questo punto? Sì, esattamente, si fa il nome di tre di Generali, Poste e Amundi, che attraverso questa operazione dovrebbero rendere possibile a Unicredit di ridurre il deficit di capitale tra i 4 e 5 miliardi di euro, e questa cifra dovrebbe servire a raggiungere un tier 1 del 12%, quindi comunque il fatto che si arrivi comunque a definire meglio probabilmente questa shortlist ha fatto beneficiare il titolo, che oggi è stato appunto tra i migliori del listino e tra i migliori tra i bancari. Sì, dicevo, anche Monte dei Paschi è arrivato a recuperare quasi il 4%, poi ha ritracciato. Invece tra i titoli, diciamo, non a maggiore capitalizzazione ma bancari, il Creval, il credito valtellinese, si è messo in mostra oggi per la trasformazione in SPA, se ho ben capito. Sì, esattamente, perché il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese ha deliberato ieri di convocare l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria per la fine di ottobre, proprio per deliberare questa proposta di trasformazione della banca in società per azioni. Inoltre poi hanno anche detto che i soci saranno chiamati a esprimersi su una proposta di raggruppamento azionario hanno anche stabilito di limitare in tutto e senza limiti di tempo il rimborso tramite buyback, tutte mosse che sono state viste positivamente dagli analisti, in particolare quelli di Equita si sono esperti favorevolmente a quelle che sono state le decisioni del CDA della banca, dicendo che soprattutto tutte le decisioni sono opportune e che verrà accolta anche favorevolmente dagli investitori. Allora, tra i titoli in negativo c'è invece Buzzi Unicem meno 1,70 e poi Fiat Chrysler meno 0,80, fermo restando che Exor, la controllante, ha guadagnato il 2,80%, Fiat è anche peggiorata, come mai? Sì, allora su Fiat sono uscite queste indiscrezioni stampa non direttamente legate al gruppo FCA, ma a una società giapponese Takata, che è quella che ha fornito a Fiat e anche altri gruppi automobilistici i famosi airbag difettosi che hanno costretto il gruppo italo-americano e altri gruppi nel mondo poi a fare delle grosse campagne di richiamo nel mondo delle vetture. E quindi secondo gli analisti se fosse confermata questa indiscrezione, quindi un eventuale fallimento di questo fornitore giapponese sarebbe negativo, perché renderebbe più difficili eventualmente dei rimborsi da parte di questa società AFCA per quello che ha speso per le campagne di richiamo. Allora, nel ringraziare Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore, do appuntamento a dopo il GR24 per i migliori e i peggiori, poi ci occuperemo dei tassi di interesse americani ma anche uno spazio sui rimborsi bancari. Oggi su questo è intervenuto anche il ministro Padoan. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dovevamo concludere l'approfondimento di borsa dando i migliori e i peggiori, poi passiamo anche ai rimborsi invece nel caso delle quattro banche fallite e all'attesa non tanto per un'iniziativa sui tassi di interesse americani che è da escludersi, ma per il commento che accompagnerà la riunione del del FOMC, del direttivo della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. Allora, titoli: il migliore primi sui motori, più 29%, e poi Ambientesis, più 12,7%, Visibile Editore, più 6,20%, e UbiBanca, di cui parlavamo, più 5,30%. Fronte opposto, invece, Meteorius Capital, meno 11,2%, Softec, meno 7,5%, Notorious Picture, meno 5,70%, SNAI perde il 4,50%. Ne abbiamo parlato anche ieri, nel senso che il tema dei rimborsi agli obbligazionisti che avevano acquistato bond subordinati, quindi risparmiatori delle banche, Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrare, Cari Chieti, dicevo, sono a tre mesi dalla scadenza, dai dati che abbiamo a disposizione sono ancora bassissimi, allo 0,5%. Su questo è intervenuto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan rispondendo al question time della Camera. Ha detto: la scelta di consentire l'accesso al meccanismo del rimborso automatico solo ai risparmiatori che abbiano acquistato i bond subordinati in un rapporto diretto con le quattro banche è stata presa in considerazione dell'incapienza delle stesse, scusatemi. Diverso invece è il caso di chi ha acquistato da altri intermediari capienti. La scelta legislativa di limitare l'accesso al rimborso automatico solo per gli investitori che hanno acquistato i titoli direttamente dalle banche, poi messi in liquidazione, escludendo invece coloro che avevano fatto lo stesso investimento, ma tramite altri intermediari, è dovuta alla necessità di assicurare la compatibilità del meccanismo di rimborso con la disciplina dell'Unione Europea sul risanamento e risoluzione delle banche e con le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sul divieto di aiuti di Stato. Ciò premesso, tra le condizioni per riconoscere il ristoro a favore degli investitori vi è quella della intervenuta violazione delle regole di condotta relative alla vendita degli strumenti finanziari, accertata quantomeno tramite ragionevoli e solidi indici presuntivi. Si è comunque ritenuto, anche sulla scorta di preventive interlocuzioni con gli uffici della Commissione europea, di istituire il fondo e di limitarne la fruizione ai soli risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari dalle banche risolte in considerazione della incapienza delle stesse. Del tutto differente è la condizione di chi ha acquistato da altri intermediari capienti. Allora, vediamo se ho capito bene. A far aderire tutti quelli, anche quelli che non avevano acquistato direttamente dalle banche, le banche erano incapienti, cioè non avevano la disponibilità finanziaria per i rimborsi. Altra cosa, dice Padoan, è chi ha acquistato da altri intermediari incapienti. Resta il fatto capienti, e quindi da società che le hanno collocate ma non hanno il problema, diciamo, non avevano un problema di solidità finanziaria delle quattro banche. Detto questo, è un po' arzigogolato. Ricorda, diciamo, un modo di parlare, diciamo, non chiarissimo, se posso permettermi, però il tema di fondo è sostanzialmente, lo dico con massimo rispetto al ministro Padoan, l'ammontare dei rimborsi che sono stati realizzati in questo momento, perché poi, cioè, non possiamo non commentare che lo 0,5% a tre mesi dalla scadenza è un problema. Allora, ci possono essere degli errori da parte dei risparmiatori, però, insomma, parlare di si è deciso di andare in questo modo perché in considerazione dell'incapienza delle banche stesse, diverso il caso di chi ha acquistato da altri intermediari capienti, ma non ho capito bene in che cosa poi consista il caso diverso, a noi fa venire in mente qualcosa. Tarapia tapioco, rematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefadina, come antifurto per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col Tarapia Tapioca. Vabbè, non si offende il ministro, però obiettivamente ci abbiamo messo un po' a capire questa dichiarazione. È diverso il caso di chi ha acquistato da altri intermediari capienti, cosa vuol dire? Insomma, andiamo avanti con i rimborsi di queste quattro banche. Già è stato fatto abbastanza casino e sottovalutato il tema anche dal governo a novembre, e le conseguenze dell'iniziativa presa a novembre. L'Italia complessivamente, questo governo e quello precedente almeno, dovevano muoversi prima, l'abbiamo detto decine di volte. C'è stata una cattiva comunicazione anche, a mio avviso, tra governo, Banca d'Italia e Consob, ma governo e Banca d'Italia in primo luogo. Invece segnalo che il ministro Padoan è intervenuto anche sul tema del Monte dei Paschi, dicendo insomma, che la nuova nomina dovrebbe segnare discontinuità e dovrebbe facilitare questa discontinuità il varo del nuovo piano Speremme. La realizzazione di questo nuovo aumento di capitale per 5 miliardi comporta un piano che dovrà essere in discontinuità rispetto al piano in base al quale era stato presentato al mercato da poco più di un anno l'ultimo aumento di capitale. Il segnale di discontinuità faciliterà la realizzazione del nuovo piano industriale, la finalizzazione ottimale della più grande operazione di cartolarizzazione di sofferenze avvenuta in Italia e lo sviluppo di una banca rinnovata e sostenibile. La scelta del nuovo amministratore delegato è avvenuta sulla base delle procedure previste dalla banca per la sua successione. La cooptazione con l'attribuzione delle deleghe e attribuzione del ruolo di direttore generale è avvenuta con unanime consenso da parte dell'intero Consiglio di amministrazione. A chi mi scrive, Padoan parla del Monte dei Paschi perché lo Stato è entrato col 4%, come ricordavamo anche ieri, nel Monte dei Paschi con la trasformazione del prestito di Tremonti Bond, poi Monti Bond trasformati in azioni. Quindi il governo è azionista, diciamo, lo Stato è azionista del Monte dei Paschi, seppur con una quota di 4%. Da Padoan e dal Monte dei Paschi andiamo invece al tema più complessivo dei tassi di interesse che sta muovendo in maniera anche molto incerta e negativa le borse mondiali. Questa mattina la banca centrale giapponese ha lasciato i tassi invariati, meno 0,1%, e ha comunicato che continuerà ad espandere la propria base monetaria, quindi a iniettare liquidità fino al raggiungimento dell'obiettivo di un'inflazione al 2%. Come sappiamo, infatti, i tassi si tengono bassi quando l'economia non riparte, nel tentativo che, rendendo il denaro poco caro, o addirittura in negativo come nel caso del Giappone, vi siano maggiori investimenti. E nel caso del Giappone, come nel caso dell'area euro, il problema si chiama anche inflazione, cioè un'inflazione troppo bassa è un'inflazione che non va bene per tutto un insieme di motivi, perché aumenta il valore reale del debito dei debitori, perché tende a rinviare gli acquisti se si va in deflazione. E quindi mantenere il costo del denaro basso dovrebbe far ripartire, o meglio, l'auspicio che faccia ripartire l'economia e faccia tornare un po' di inflazione. Vale per il Giappone come vale per l'area euro. Gli Stati Uniti hanno un tema un po' diverso, devono rientrare ad una politica espansiva perché l'economia sta andando bene, sicuramente meglio che nell'area euro e anche in Giappone. Ma importante sarà l'avvertimento che fa Janet Yellen questa sera. Di questo parleremo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, quando si parla di tassi, quando si parla di Federal Reserve e quindi della decisione che verrà annunciata questa sera, e anche del commento, e soprattutto del commento che l'accompagnerà, noi si parla con Mario Platero, corrispondente sulle 24 ore da New York. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano. Allora, ecco, mi sembra, per riprendere le fila, scontato o ampiamente atteso che la Yellen non alzi i tassi di interesse, li lasci appunto allo 0,25-0,5%, il livello a cui li ha portati a dicembre dell'anno scorso, prima volta di un rialzo dal giugno del 2006. Perché sarà così importante, Mario, invece il commento e quindi come verrà accompagnata questa decisione? Ma perché potrebbe darci delle indicazioni più precise se questo aumento è rimandato, per esempio a dicembre. Ci sarà una riunione ancora subito prima delle elezioni, ma non credo che si proceda a quel punto, perché sarebbe ovviamente delicato fare un aumento subito prima delle elezioni americane. Questa è un po' la tesi, questo è un po' il consenso, però non lo sappiamo. A questo punto io credo che ci sia un po' di parossismo sul mercato su questa storia dei tassi, perché stiamo parlando comunque di un'idea di un altro 0,25%, quindi se i tassi vanno dallo 0,25 al 0,50, dallo 0,50 allo 0,75, di fatto non cambia granché, però c'è una grossa fragilità psicologica ed è su questo che il mercato sta reagendo. L'altra cosa importante è che comunque la decisione di muoversi in una direzione restrittiva la Fed non solo l'ha già presa, ma l'ha già messa in atto, come ricordavi tu stesso, con il primo aumento fatto nel dicembre dell'anno scorso, quando ha portato i tassi da una variabile dello 0,025 allo 0,25-0,50. Ecco, quindi la decisione è già stata presa e l'azione c'è già stata. Poi la Fed avrebbe detto ma forse faremo 3-4 aumenti nel corso dell'anno, non li ha fatti. Perché? Perché prima abbiamo avuto la crisi cinese dell'anno scorso, poi abbiamo avuto dei momenti di fragilità qui negli Stati Uniti, poi l'inflazione non rimbalzava e dunque la Fed si è sempre riservata il diritto di procedere a seconda dell'andamento economico. Ecco, su questo c'è chi ha detto, Mario, che in realtà tutto il nervosismo dei mercati, allora sono due le ipotesi prevalenti. Il primo è che mancando altri spunti si specula, ci si muove anche semplicemente su commenti. Io sono d'accordo con te che anche se la Yellen annunciasse non a dicembre, non sotto elezioni, ma insomma annunciasse quindi non a novembre ma a dicembre un aumento dei tassi di interesse, sarebbe poca cosa, non è che va a cambiare le dinamiche dell'economia un quarto di punto. Però la sensazione è che da un lato lo si usi come pretesto, dall'altro che però il giudizio negativo sulle banche centrali, che quindi alimenta l'incertezza, sia anche dovuto al fatto che si ha la sensazione che non sappiano bene che pesci pigliare, se posso permettermi. Sì, allora devo dire che la Fed non si è comportata in modo trasparente, perché non c'era bisogno che la Yellen annunciasse di fatto che ci sarebbero state misure restrittive imminenti, non c'era bisogno, e quindi si ha l'impressione che non ci sia un timone solido in mano della Federal Reserve, e questo preoccupa perché? Perché soprattutto nel momento in cui abbiamo un'incertezza elettorale, perché è chiaro che la differenza fra Hillary Clinton e Donald Trump è rilevante dal punto di vista dell'impatto poi sulle decisioni economiche, fiscali e così via. Beh, diciamo che il mercato ha sempre avuto nella Federal Reserve un punto di riferimento suprapartes, un punto di riferimento solido, credibile. Ecco, questo manca alla Fed di Janet Yellen, dà dei messaggi contraddittori. Allora, piuttosto che dire una cosa per poi non farla, come tu mi insegni, è meglio stare zitti. Su questo non ci sono dubbi di nessun genere. A questo punto la Fed ha imboccato questa strada, il mercato si sta abituando, e devo dire che se possiamo attribuire una colpa al mercato è quella di reagire in continuazione in modo scomposto. Come dicevi tu, si cercano delle reazioni. Per esempio, quando parlò la numero due, uno dei governatori della Fed, la Brenner, Yael Brenner, e chiarì che non ci sarebbe stato un aumento, i mercati salirono piuttosto forte, me lo ricordo, era un martedì mattina di una decina di giorni fa, ci fu un aumento forse dell'1,2% della borsa. E quando poi il giorno dopo c'è stata invece una caduta del prezzo del petrolio, ecco che il mercato ha reagito subito al petrolio ed è diminuito. Allora non c'è coerenza da parte del mercato, cosa che direi è preoccupante, perché nel momento in cui osserviamo queste fragilità psicologiche, questa volatilità, vuol dire che forse qualcuno pensa che non ci sia una solidità di fondo, che magari il mercato cerchi l'occasione per vendere, per realizzare profitti nel momento in cui ci sono delle notizie che consentono di farlo. Allora, tu giustamente ricordavi che anche la Federal Reserve non farà nulla a pochi giorni dalle elezioni presidenziali, che sono l'8 novembre, e la prossima riunione, a parte quella di stasera, dovrebbe essere l'1-2 novembre, e quindi si andrà probabilmente al 13-14 dicembre. Detto questo, ed è vero che la Fed e la Banca Centrale, americana è super partes, però già quello che ho ricordato è super partes, ma è attenta, diciamo, alle dinamiche politiche. Allora, c'è l'ipotesi che nel caso vincesse Trump o vincesse la Clinton, cambierebbe l'atteggiamento della banca centrale, della Federal Reserve? Ma, da un punto di vista di tassi di interesse direi di no, nel senso che ormai la gestione Yellen ha impostato la sua linea di condotta e dunque reagirà a quel punto a quelli che sono diciamo gli input economici. Certo, non sappiamo se la Yellen, nel caso vincesse Trump, poi magari si ritira o dà delle dimissioni. Certo, Trump non la può sostituire, nel senso che c'è un mandato e la Yellen resta fino a quando il suo mandato non scade, quindi la continuità da parte della Federal Reserve c'è, e secondo me se da una parte c'è un po' di attenzione ovviamente agli equilibri politici per evitare delle turbulenze di mercato a ridosso di elezioni, e dunque è meglio restare neutri, non credo che poi la Fed tenga conto di messaggi politici a quel punto, cioè la Fed ha impostato la sua linea di condotta ed è un istituto, un'istituzione indipendente, è considerata la seconda istituzione più potente negli Stati Uniti dopo la Casa Bianca, proprio perché non ha dei controlli politici né dal Congresso né dalla Casa Bianca, e deve gestirlo ovviamente questo potere con oculatezza il Consiglio della Federal Reserve, cosa che in generale ha fatto. Forse adesso c'è qualche piccolo sbandamento per via da una parte del nervosismo dei mercati e dall'altra per via di queste elezioni difficili, complesse che sono davanti a noi, e dunque la Fed dice beh, insomma, io non è che intervengo per dare dei messaggi o per creare delle situazioni di turbolenza se c'è il rischio che poi capitino. Aspetto un mese e non cambia niente. Ecco, questo è un po' il senso. Ecco, un'ultima domanda, Mario. Ritorniamo invece alle variabili economiche. Ieri abbiamo visto un dato sulle nuove case deludente. La settimana prima invece avevamo commentato dati statunitensi positivi. Allora, noi sappiamo che hai ragione tu nel dire che tanto un quarto di punto è un segnale, diciamo, politico di indirizzo, non è che cambi radicalmente il costo del denaro e metta chissà quale freno agli investimenti o al ricorso ai prestiti. Però sappiamo che sullo sfondo una banca centrale va avanti in un percorso di aumento dei tassi quando è sicura della solidità e della e di come si sia strutturata questa ripresa economica statunitense. Nel giorno in cui l'OCSE ci dice che l'anno prossimo comunque cresceremo meno del previsto, quasi come quest'anno a livello mondiale. Ecco, questa sicurezza, questa, diciamo, ripresa che si è strutturata, la Yellen, la Fed la vede? Ma guarda, non dimentichiamo che siamo ormai nel settimo, quasi l'ottavo anno di ripresa economica negli Stati Uniti. Ci sono a questo punto due correnti di pensiero. La prima è che siccome l'economia americana non è cresciuta molto rapidamente, abbiamo avuto tassi di crescita relativamente contenuti rispetto alla media storica, ecco, allora questo andamento potrebbe continuare anche l'anno prossimo, quello dopo e così via, così via. Seconda variabile, la Fed vuole aumentare i tassi anche per avere dei margini di manovra nel caso dovesse intervenire di nuovo, nel caso di una crisi. A questo punto con tassi zero che cosa fa? Un altro bazooka, un'altra manovra monetaria aggiuntiva, ma non ha molti margini. Dunque, nel momento in cui le cose vanno bene, è bene portarsi in avanti. Terzo punto, l'inflazione. Ecco, l'inflazione nel momento in cui raggiunge il livello del 2% consente alla Fed, certo, di riportare i tassi un po' più elevati, perché a quel punto di nuovo devi giocare d'anticipo. E alla fine c'è qualcuno che dice ma in fondo la Fed potrebbe aumentare questi tassi anche rapidamente nei prossimi mesi, non dimentichiamo che spesso la Federal Reserve, quando si è trattato di combattere l'inflazione, ha preferito combattere l'inflazione piuttosto che proteggere la crescita economica, ricordiamo cosa è successo negli anni '80. E quindi qualcuno vede un quadro in cui la Fed può aumentare, l'economia potrebbe rallentare per poi ristabilirsi e recuperare. È normale, capita spesso che quando c'è un nuovo presidente che entra alla Casa Bianca preferisce, come dire, ripulire, tagliare i rami secchi nel primo anno della sua gestione, nel primo anno e mezzo, per poi rimettersi a lavorare dopo e uscire alla fine del primo mandato con una ripresa più solida. Ma questi sono tutti scenari ipotetici, naturalmente. Lasciamo ai nostri ascoltatori, diciamo, la scelta di quello che secondo loro è il più credibile. E poi vedremo anche cosa dirà stasera la Yellen. Grazie intanto a Mario Platero da New York. A chi mi chiede rapporto tassi interesse, si aumentano i tassi quando si vuole frenare l'inflazione, l'America l'inflazione ce l'ha, e perché? Perché aumentando il costo del denaro rallenti il ciclo economico e rallenti quindi un po' la spesa e quindi le tensioni sui prezzi, questo è il motivo per cui si alzano i tassi, per ridurre un po' l'inflazione. È veramente tutto per questa puntata. Da Sebastiano Berrizzoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.